Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave e buonasera ai Radio Stars, come sempre ogni mercoledì live. Buonasera Radio Stars. Buonasera, buonasera, a, voi. Buonasera, buonasera a, voi. A tutti. Avete fatto un buon viaggio? Sì. Sì. Esattamente, un viaggio bello, un viaggio rock praticamente. Dovete venire qua. Non so se sia proprio un viaggio rock, però alla fine il risultato è rock, secondo me. Il risultato è rock. L'arrivo è rock, dai. L'arrivo è rock. Esattamente, l'arrivo è rock. Cesare, che oggi stasera non suona la batteria. Non suona la batteria, esatto. Sei presente. Come conduttore, co-conduttore della band. Beh, insomma, non lo so se sono il conduttore della band, però loro di solito dicono parla tu, sei esatto, tu quello che sì, parla vai, di più, vai. Poi alla fine io non sono tanto c'è Massimo, convinto, chitarra, sì, e chitarra voce, e voce, e Daniele, basso, un bel basso. Davide. Davide, un bel basso, Rickenbacker, un basso che fa bello, fa musica, fa rock, Rickenbacker, c'è poco da fare. Radio Stars, l'idea di creare questa band, dove è partita, Cesare? Beh, è partita ormai, si dice, nel lontano, no? E effettivamente non è tanto vicino, perché era il 93 forse, è vero? Sì, forse io anche 92, forse 92, anche l'anno prima. Così, perché 94 Beh, da 92 in poi. Non sì. Negli anni 90, negli siamo 90. Nella prima metà degli anni 90. Io e Massimo abbiamo incominciato a avere delle idee di formare un gruppo e abbiamo trovato alla fine una persona per formare un gruppo, poi alla fine non era proprio quello che volevamo fare. Abbiamo fondato i Gigantic, che era un gruppo prima dei Radio Stars. Abbiamo suonato per circa due anni con i Gigantic. Era suonato per circa due anni. Il genere è sempre lo stesso? Sì, più o meno. Più o meno sì. Era il periodo. Sì, perché era il periodo del grunge, c'erano i Nirvana, gruppi così. Allora sì. Io credo che fossimo abbastanza grunge alla fine. Sì, alla fine eravamo sì. Un pochino dei copioni. Ammettiamolo. Esatto, e Davide ci seguiva per farci da roadie alla fine, cioè bello, ci portava le chitarre, sì, e ci faceva le cose. I concerti, aiutavo con le chitarre. Portavi le chitarre praticamente, ma non... sì portava le chitarre, mi accordavo. Quindi era già nell'ambito musicale, sicuramente. Certo. Beh, accordare una parola ma anche grossa, nell'ambito di amicizia, perché eravamo... lui ha detto accordare una parola grossa. Accordare una parola grossa, perché io proprio ricordo un concerto dei Gigantic in cui lui accordò, mi pare, la chitarra, se vuoi dirlo tu, lo dico io. No, sì, però... A mia discolpa, il fatto che non ci si vedeva nulla, quindi non è l'accordatore mezzo rotto. Non è tutta colpa tua. No, non è tutta colpa mia, però sì, l'effetto non è stato proprio il massimo dal vivo, ma... Sì, perché c'era un brano, mi ricordo, che iniziava solamente con il basso, lui aveva accordato la chitarra e c'erano tipo quattro battute di basso. E in queste quattro battute io mi ricordo che lui era sotto il palco e ci guardava, come dire, adesso no, quando entra la chitarra secondo me succede qualcosa di molto grave. E infatti è stato proprio così. La chitarra, si è proprio sentito il problema. Sì. E poi alla fine, insomma, visto che questo gruppo per qualche motivo, non so quale, magari non funzionava, forse perché le chitarre non erano molto accordate, abbiamo deciso di cambiare gruppo con Massimo e sapevamo che la persona giusta, proprio perfetta per noi sarebbe stato Davide. E forse tu hai chiamato Davide per chiedergli: vuoi fare un gruppo? Sì, se voleva venire a suonare il basso con noi. Sì, io suonavo la chitarra in altri contesti, però poi alla fine mi sono convertito al basso. Ma per antonomasia, questo è un gruppo rock, per antonomasia, il trio. Sì, sì, basso, sì. Basso, batteria, chitarra. Assolutamente. Assolutamente, i Cream Docet, quindi sono là davanti. Voi avete un po' di blues nelle vostre vene, sì, forse musicali. Forse sì. Cico suonava in un gruppo blues e io tra l'altro avevo fatto anche una specie di, diciamo, audizione. Tu eri stato gruppo. Chiamato. Era stato chiamato, blues, vero? Per prendere parte appunto a questo gruppo. Poi alla fine tu erano gli Oracle and the Miracle. Oracle and the Miracle, che è un gruppo, perché noi praticamente diciamo nella zona di Reggio Emilia abbiamo una specie di tradizione, direi, di blues. Soprattutto nella zona bassa, diciamo vicino al Po e cose di questo tipo, e c'è una schiera di personaggi veramente affascinanti. Hanno fatto anche un film su questa cosa che si chiama Emiliana, mi pare. Emiliana, che parlava di questi personaggi, che parlava di questi personaggi che sono veramente convinti di essere nel Mississippi, cioè proprio su un delta a Reggio Emilia, poi proprio onestamente proprio lo vivono il blues, hanno proprio i cavalli e quindi il ranch, hanno solo i cavalli, e io quindi una porzione degli Stati Uniti là, veramente. E quindi io, diciamo, prima di fondare appunto i Gigantic e i Radio Stars, poi facevo parte di questo gruppo, suonavo la batteria nei degli Oracle and the Miracles. A proposito di questo, fra la via Emilia West, ha detto buon Francesco. Infatti. Ha detto lui, non è di Reggio Emilia, però insomma. È vicino. Esatto. Ok, adesso abbiamo rotto il ghiaccio, come si dice. Sono le 22:13, tutto assolutamente dal vivo e in diretta, chiaramente. Sì. Suoniamo un pezzo da disco stavolta, però poi suoneremo effettivamente da vivo. Abbiamo scelto il primo pezzo dell'album, praticamente. Il primo pezzo del nostro ultimo album, che è uscito nel 2008, ci abbiamo messo 5 anni a farlo, perché l'altro era del 2000, era del 2003. Era pensato. Alla fine ci abbiamo messo 5 anni, ma è un prodotto, secondo me, che cioè, penso che insomma siamo tutti e tre fieri di questo album qua. Assolutamente, sì, perché, sì. Perché insomma ci piace molto. E appunto il brano si chiama Radio Stars, Radio Star, anzi. E apre una specie di title track, o quasi è quasi una title track alla fine, sì, perché è il nome del nostro gruppo tranne la S. Tranne la S, ok, lo sentiamo. Simbolare. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. La batteria di Cesare Anceschi, il basso di Davide Gamberetti, Gambarelli, pardon, sono un po' cieco stasera, e la chitarra svisata di Massimo Barbieri. E la voce tua anche. Sì, anche la voce. Ma premeva forte Cesare questo inizio. Anche alla fine faceva una specie di jam session praticamente. Sì, Cico è abbastanza pesante sulla Cico, batteria. Ti chiamano Cico? Cico, sì, mi chiamano Cico. Perfetto. Cico è il mio soprannome da sempre, direi. L'hanno trovato i miei genitori, veramente. Ah. Infatti quando qualcuno chiamava a casa mia per chiedere di, appunto, Cesare. Dicevano, ma chi? Chi? Cico. Beh, un pezzo molto duro. Non è che sia molto duro. È un pezzo che deve essere così per l'inizio del disco. Sì. Deve dare la carica. Noi infatti, insomma, non sapevamo bene con quale pezzo attaccare l'album. Forse subito pensavamo a The Party, che è un altro brano che poi alla fine abbiamo messo nella quarta posizione come numero di traccia praticamente. Esatto. Però quando abbiamo appunto scritto Radio Star abbiamo capito, secondo me, che era il brano che andava bene per aprire l'album. Mentre andava al pezzo, Massimo mi raccontava una cosa del discorso della registrazione. Adesso, visto che siamo in diretta, anche il pubblico lo deve sapere, adesso lo racconti anche ai nostri ascoltatori. Certamente, sì. No, dicevo appunto che è una registrazione dell'album molto live, nel senso che abbiamo registrato suonando tutti e tre assieme e registrando tra l'altro con un vecchio registratore multitraccia degli anni 60, quindi è proprio un disco che a noi risulta molto vero e molto quasi registrato dal vivo. Ecco, ci sono pochissime sovraincisioni e tutto molto suonato, come disco. Tra l'altro questa cosa si sente, secondo me, anche proprio nel fatto che abbiamo scelto di lasciare proprio il suono del nastro che parte, del nastro che si ferma in certi brani all'inizio e alla fine dei pezzi, sì. Proprio perché, proprio essendo questo apparecchio veramente molto vecchio degli anni 60, uno Studer, allora si sente proprio quando il nastro parte, quando si ferma, wow. E l'idea come l'avete avuta di questo apparecchio degli anni 60? Così per caso? Un po' per caso, nel senso che siamo andati in questo studio e appunto aveva a disposizione questo apparecchio degli anni 60, poi ho detto, beh, usiamo quello per registrare. Perché forse l'ha scelto lui alla fine, Andrea Rovacchi, che poi effettivamente è anche la stessa persona che ha inciso anche gli album di Giancarlo Frigeri. Ah, siamo andati proprio nello stesso studio. Salutiamo Giancarlo. Ciao Giancarlo, esattamente, che è venuto a trovarci un po' di mesi fa assieme a te. Assieme a me. Esattamente. Quindi un pezzo di inizio, ripeto, secondo me è un pezzo che odora di blues. Non è che odora molto di blues, però qualcosina c'è. Sì, senz'altro. Sì. Sì. Sì. Ok. Non è d'accordo il nostro pezzo. No, sei convinto. No, non sono convinto. No, no, effettivamente una base c'è sicuramente. Poi c'è rock and roll. Blues, rock and roll. Ti conviene dire di sì. No, ne sono convinto, non ho bisogno di mentire. E poi uno che ha la Rickenbacker in mano non può dire. Certo. E questo è tutto. No, sì, c'è la base del blues, leggera base, possiamo dire, un po' di rock and roll, e c'è un ritornello che fa parte integrante del pezzo, anche il ritornello. Sì. Ritornello un po' tirato, un ritornello rocchettaro, molto duro, molto potente, ma un bel ritornello che deve entrare in testa, deve entrare in mente. Sì, beh, lo scopo un po' è anche quello dei pezzi di farli ricordare le persone, di farli belli. Si riesce sempre, però lo scopo è quello, l'obiettivo, diciamo. Esatto. L'obiettivo è quello. Sì. Cioè, nonostante tutto si deve sentire, si deve ascoltare, si deve recepire immediatamente. Perché quello effettivamente è un obiettivo fondamentale nei brani, cioè proprio a me piacciono molto i Beatles e anche ai miei colleghi e ai miei amici piacciono i Beatles, direi. Chiaro. Possiamo dire che siamo tutti e tre dei fan dei Beatles. Siamo tutti e tre proprio dei fan dei convinti. Beatles. Io proprio in modo incredibile. Sì. E quindi proprio non abbiamo nessun timore nei confronti del pop. Cioè del fatto di fare un brano che sia orecchiabilissimo. Più è orecchiabile, meglio è, secondo me. Sì. Non abbiamo questo. Sì, non è una questione di minore qualità assoluta. No, certo. no, anzi, per noi è di maggiore qualità. Esattamente. Quindi serve, assolutamente serve. Sì, e per iniziare sì. L'album non fa mica male, fa bene. Ah, sì, decisamente. Noi vorremmo fare tutto quanto l'album che sia orecchiabile e ascoltabile, veramente. Ma l'orecchiabile, sì, può darsi che sia anche positivo, però non deve chiaramente fermare determinate esigenze rocchettare. L'orecchiabilità, d'accordo, sì, ma rock c'è poco da fare. Ok, 22 e 22, sempre Michele Tosone in regia che guiderà tutto quanto il nostro percorso fino a mezzanotte, sì. Lo iniziamo anticipatamente. Mettiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo con il live. Bene. Avete scelto la traccia numero 2. Siete andato in ordine giustamente. La scelta è Cesare. Lo scelgo io. Veramente, devo dire la verità, le ho messe in ordine perché ho detto, vabbè, le metti in ordine di come le scelgo, le stavo leggendo dietro all'album. Quindi non c'è veramente una scelta artistica in tutto questo. È che l'ho fatta così perché pensavo... Beh, però nell'ordine dell'album c'è una scelta artistica. E quindi dai, vabbè, alla fine. Ma dopo ne parliamo della scelta artistica delle tracce. Il titolo della traccia che adesso sentiamo? Adesso questa si chiama Will Frankl and the Truth. Perfetto. Diciamo che era duro, ma veramente è duro questo pezzo. Più che duro, è un approccio diverso rispetto alla traccia numero uno. Cosa dici? Sì, senz'altro. Cioè... Visto che la canti te questa traccia. Sì. Le canti tutte te praticamente. No, no, anche no. Davide canta alcuni pezzi. Anche Davide... Diciamo sì. Che ha una Cesare media non canta. Di circa... No, Cesare no. Niente. Cesare ha cantato un pezzo in un demo... pre diciamo l'uscita del primo disco. Dobbiamo citiamo anche la discografia precedente a questo. La discografia quello che è uscito insomma, diciamo per dire. Il primo demo appunto quello dove cantava Cesare un pezzo si intitola Very Clean, però era giusto un demo, una cassettina di quelle c'erano che ancora le cassettine c'erano ancora le cassettine. Poi abbiamo fatto aiutatemi con le date perché qua no le date sono impossibili da ricordare abbiamo fatto un 45 giri che è uscito con la rivista Urlo. Ah beh, questa è una rarità assoluta sì. Era nel 94 forse sì 96 94 okay. 94. Poi diciamo facciamo la discografia dove compariamo come artisti singoli diciamo. Ho capito. Poi è uscito il primo album nel 90. Ha fatto anche un altro paio di compilation. Sì, dicevo appunto però prima sì. Le nel 95 Dancing Lecci Bauci Ba nel 95 prodotto dall'etichetta Asbury Park. E poi nel 97. 97 va bene e poi dopo abbiamo fatto More Tradition than New che era prodotto da un'etichetta olandese per la Freebird Records. E là che abbiamo una produzione poi 99 poi dopo è uscito What Might Have Been 2003 prodotto dalla Kimoto Music. Massimo Varini che salutiamo Varini. Se è in ascolto bene e poi è uscito For What Endless Morning, Endless Morning prodotto appunto, dalla Radio Stars esatto. Quindi ragazzi, praticamente da voi siamo noi. Esattamente, ottimo. E poi abbiamo fatto un po' di compilation, una tra l'altro è uscita anche negli Stati Uniti, che bene, la vedo qui, che questo è Hello World Document, esatto, dove c'era un nostro pezzo. E tra l'altro in un altro pezzo, in una traccia appare anche Lemmy Kilmister dei Motorhead. Vedi, parlando di metal, parlando di metal, esatto. Infatti avevamo pensato a quel punto di scrivere Radio Stars con i due puntini sopra la O come Motorhead, esattamente. Mica male come idea, non sarebbe male. Nel prossimo disco forse possiamo anche cambiare nome. No, Radio Stars. Radio. Però il nome non è bello, cioè chiaramente è una battuta, però no, certo. Il nome non si deve più cambiare. No, cioè, beh, sicuramente, infatti. Si deve cambiare solamente se sono delle pressioni, discorso di altro nome similare, altre band, eccetera. Però infatti era più solo una battuta. Sì, certo. L'emblema è quello. Sì. Esatto. Quindi ritorniamo a questo pezzo che era abbastanza duro, con la voce un po' potente, decisamente potente. E rispetto al primo disco, al primo pezzo di esordio dell'album, non è che si allontana leggermente. Si allontana leggermente, ma posso dirti che il primo album forse aveva un po' più questo approccio, un po' più duro, diciamo, rispetto a quelli successivi che magari. Avete perso per strada praticamente. No, non è che l'abbiamo perso per strada, magari abbiamo introdotto un po' più melodia, ecco, ho capito, rispetto al primo album. Ci definivano dei punk. Non siamo mai stati. Non siamo mai stati, però diciamo questo è stato un cambiamento forse graduale, non ci siamo ben resi conto di questo cambiamento. È stato molto naturale. Non ci siamo mai detti bene, adesso cambiamento. Una evoluzione, forse miglioramento. Miglioramento, no. Chi ama il punk non si può dire un miglioramento, questo è dispregiativo nei confronti di chi ama il punk. Sì. Però un allontanamento da un certo stile per abbracciare altri stili, forse sì. Ma non siamo mai stati veramente dei punk, perché anche quando questo è il video è il video praticamente noi stiamo sentendo il video che ho la presentazione abbiamo sentito. Ho fatto una piccola presentazione io prima, mentre quando diciamo siamo arrivati qua abbiamo fatto questa presentazione, insomma, diciamo spedito questo video sulla mia pagina di Facebook, tanto per fare un po' di pubblicità ulteriore. Mi pare sia una cosa giusta per quello. È così, insomma. Parlando del discorso dell'approccio, avete allargato l'orizzonte sonoro. E poi volevo dire appunto mentre che noi non siamo mai stati punk, perché quando comunque abbiamo fatto uscire questo album, il primo album nel 97, tutti quanti ci dicevano siete dei punk, sicuramente avete dischi di nomi di gruppi, ci dicevano che noi veramente non conoscevamo veramente. Okay. E effettivamente in tutte le varie interviste noi invece, dicendo la verità, dicevamo veramente abbiamo dei dischi dei Pet Shop Boys noi, e facevamo delle figure veramente di quelli che fingono di non ascoltare, non ti vogliono dire le fonti dalle quali copiano, no? Ho capito. In realtà però era vero, perché io siamo fan dei Beatles, dei Pet Shop Boys, che alla fine sono pop come i Beatles, esatto. Esattamente. E quindi abbiamo sempre detto la verità, però vabbè. Ok, adesso diciamo la verità musicalmente parlando, suoniamo. Suoniamo un pezzo. Suoniamo un pezzo, tra l'altro tratto dal nostro primo disco, quindi è proprio uno dei primi pezzi che abbiamo scritto nella nostra storia. Ok. She goes to the pool, but she can't take a bath. You ask her for a dime, she said I'm not so well. So baby, nobody lied to you, you can tell it to the world. Ra-ta-da-ta-ta-ta-da-da. I've got my own things. For this kind of things, I always got a nose. In fact, when my nose is bleed, she's got her own things. So baby, now to, you can tell it to the world. Ra-ta-da-ta-ta-ta-da. I've got my own things. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. Non era punk, ma era talmente coinciso che poteva anche essere punk, tra parentesi, tra virgolette. Cosa infatti, secondo me, versione. Molti ci consideravano punk proprio perché i primi pezzi erano veramente molto corti. Esattamente. Avevamo addirittura un pezzo di 20 secondi. 20 insomma. Secondi, sì. No, sì. Siete i Ramones, però. Sì. Sì, i Ramones avevano quella caratteristica. L'avevamo anche, tra l'altro, citato. I Ramones. No? È due minuti, due minuti. Lo standard era 2 minuti e 5 per i Ramones. Sì, sì, nel nostro primo disco lo standard è quello, 2 minuti. Ah, sì, perché erano 16 brani in 35 minuti circa. Sì. E sì, sì. Questo pezzo, cioè, aveva questo significato per me punk in questi termini, cioè del minutaggio. Sì. Ah, beh, quello era veramente brani poi molto dal brevi. Vivo, insomma, con e come l'ho fatto dal vivo? Insomma, è un po' più duro. Sì, grande, è più, sì. Sì, sì, un po' caldo. Esplosivo, esplosivo. Lo era esplosivo. Buono, infatti, esatto. Perché canti sempre I got? Ti sto facendo un po' di critica, mettendo i puntini sulla I, o no? Cosa dici? Sì. Va bene. In ogni caso, questo lo sopporto da 15 anni. Ah, una sopportazione piacevole. Sì, sì, sì. No, quindi questo era un pezzo di un po' di tempo fa, praticamente. Sì. Primo disco, si parla del 1900, abbiamo già detto la data, però 94-95, non ci ricordiamo. No, 97. Dobbiamo ancora dire una cosa, il titolo del disco nuovo, quello che state presentando adesso. Quello che stiamo presentando, quello ultimo uscito prima del nuovo che uscirà non si sa quando. Nothing is possible. No, quello nuovo, Endless Morning. Esattamente. Okay. È una bella copertina con i colori gialli, voi tre praticamente là che suonate con la forza della quella musica. È una foto che ha fatto Cico, mi sembra. Hai fatto te quella foto? L'ho scattata io perché eravamo a fare la pre-produzione al Blue Velvet a Modena. Ah, ok, con il locale famoso. Sì, e quindi è una fotografia che ho scattato dalla sala di presa verso la sala dove c'è il mixer, verso la regia. Immaginate di essere qui, diciamo, no? Anche qua c'è il vetro, adesso magari quelli da casa che ci ascoltano non vedono, però c'è il vetro che praticamente separa la stanza dove siamo noi da quella dove c'è il mixer e la regia. Certo. E quindi fa un po' specchio. E questo effetto di specchio alla fine crea questa cosa di immagine quasi doppia, perché ci sono anch'io che scatto la foto. Questo qua alto, questa ombra qui che si vede, sono io che sto scattando la foto riflesso nel vetro. Ah, bene, bene. Benissimo. E quindi non sono tante immagini sovrapposte, è solamente un'immagine, è stata cambiata solamente un po' cromaticamente, diciamo, con un programma per la elaborazione delle foto, insomma. E l'idea l'hai avuta così o avevi già un'idea di fare No, di solito io scatto le foto e poi alla fine magari le vedo, le vediamo assieme, diciamo, ah, questa qui andrebbe bene magari come copertina, e alla fine diciamo scegliamo come immagine da poter mettere in copertina. L'avevamo anche, tra l'altro, pubblicata su internet per poche ore. Poi quando l'ho vista su internet ho detto: ragazzi, togliamola perché quella potrebbe andare bene come copertina, però il disco non è ancora uscito. Allora poi l'avete tolta, vi ricordo. Ho capito, quello è il discorso. Sì. Una cosa che vi devo chiedere è questa: come si crea un pezzo di Radio Star? Come lo create? Com'è? Ultimamente, da dove parte il disco? Da Cese o da Daniele? O da... Esatto, perché agli inizi, cioè il primo album, c'erano diverse modalità, secondo me. Davide ogni tanto... Davide cosa ci mette col suo basso? Davide intanto porta dei pezzi pronti. Ah, proprio. Ogni tanto porta dei pezzi pronti. Ogni tanto arrivo con un brano pronto. Esatto, e sul quale c'è veramente molto poco da fare, secondo me, perché sono già definiti. Sono già tutti predisposti. Sì, c'è da una magari che basta praticamente. Io magari ecco, ci metto la batteria, però alla fine non è che sia una gran cosa, diciamo. Il più lo fa lui sui appunto, lui ci mette la voce. Lui ci mette la voce, la chitarra, però Davide porta dei pezzi pronti. Massimo, di solito quando porta i pezzi li canta anche. Li canta lui, esatto. Sì. Li canti te praticamente. Sì, esatto. Pezzi, non ne canto tanti, già costruito, però alcuni. Ma io direi che forse in proprio ogni disco un brano lo sempre canto. Ho capito. Io. Ogni pezzo forse che appunto canti tu è un pezzo che hai poi alla fine scritto tu. Sì, diciamo, forse quelli sono gli unici che il mio contributo è maggiore. Anche gli altri naturalmente contribuiscono, perché poi il brano viene riarrangiato, vengono cambiate alcune parti per migliorarle naturalmente. E per gli altri, diciamo, alcune volte Massimo anche ugualmente nello stesso modo porta un brano già, un abbozzo di brano con cui su cui appunto lavoriamo. Quindi c'è una democraticità nella scrittura dei pezzi. Assolutamente sì, assolutamente. Poi sì, molti altri brani invece nascono proprio mentre si suona, proprio in sala prove. In sala prove, sì. Aver avuto un'idea prima, si suona, si prova, poi si capisce che c'è qualcosa su cui lavorare, esatto, e quindi si riesce a scrivere un brano. E questo Endless Morning è frutto di quanti anni di lavoro, cioè quanti pezzi erano già pronti praticamente? Beh, è frutto di 5 anni. 5 anni, abbiamo già detto, sì, però voglio sapere se c'erano già dei pezzi pronti o sono stati fatti all'ultimo momento. Beh no, sono stati fatti nell'arco dei 5 anni. A me piace scrivere i testi, scrivo i testi. Sì, ecco, Cico scrive nell'ultimo disco praticamente ha scritto quasi tutti i testi. Ho capito, e poi ci avete messo la musica sopra. Sì. E io veramente... No, al contrario. Sì, esatto. E io alla musica contribuisco ben poco, se ti piace. All'arrangiamento sì, però alla stesura musicale ogni tanto ho una qualche idea e io canto, ottima anche su come suonare basso. Sì, no. Ma io applico sempre la legge di quinta, dico allora tu fai la quinta, fai la quinta che va bene. Ok, benissimo. Adesso sentiamo non la quinta ma la terza, la traccia numero 3, che si chiama Vowels Poetry. Perfetto, ok. Walk away, but it's for me that you stay. You think that something could be right, you think that something could be wrong. You think that something could be lost, you think that something could be found. You walk away, but it's for me that you stay. paura. Proviamo insieme? Ma si può? Certo. Uno, due, tre. Concorso musicale per voci, cover band, cantautori e gruppi. Per adesioni www.123prova.it. Evento promosso da Noi Padova in collaborazione con Associazione Avis, Provincia e Comune di Padova, Il Mattino di Padova. 1, 2, 3. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Facciamo un saluto a tre nostre affezionate ascoltatrici, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, e il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che vi ha voluto stasera qua. Grazie mille, ciao. Parliamo di questo pezzo. Allora, io mentre il pezzo andava, parlavo con Massimo, che è il vocalist un po' beatlesiano, leggermente beatlesiano nel senso positivo del termine. Beh, il più bel complimento che puoi farci, perché chiaramente noi siamo tutti e tre fan dei Beatles, e quindi per noi è un onore, un bel complimento, insomma. Sì, tu dicevi che senti un po' i Beatles, e noi li ascoltiamo moltissimo i Beatles, quindi è abbastanza naturale che un po' entri la musica che ascoltiamo all'interno dei nostri pezzi. Sì, parlavamo con Cesare anche prima con Davide. I Beatles hanno influenzato moltissime band, non soltanto band pop, tra virgolette. Tantissima gente. È vero. Tu citavi Motorhead, chiaramente. Io infatti ho proprio sentito una intervista a Lemmy Kilmister, l'abbiamo citato anche prima perché sì, sulla compilation con noi, e chiedevano a lui appunto qual è il tuo album preferito di sempre, e lui disse With the Beatles, che è il secondo album dei Beatles. Quindi, ed è insospettabile, perché sai, esatto, magari non ti aspetti da una persona come Lemmy Kilmister, membro dei cioè leader dei Motorhead, no? Che apprezzi i Beatles, però veramente i Beatles hanno avuto un tale impatto negli anni 60 che anche proprio gente come Leonard Bernstein, sì, che è appunto quel direttore e compositore americano, che ha tra l'altro ispirato un nostro brano, tra l'altro. Ah, però. Perché sì, ma indirettamente, sì, abbastanza. Certo. Anche lui era un grande fan dei Beatles. È una cosa in tanti, proprio gente insospettabile. È così, per parlare dei Beatles, proprio recentemente ho visto su un libro fotografico di John Lennon. Quando sono andati in America e sono andati all'Ed Sullivan Show, sì, avevano 79 milioni di persone che li hanno seguiti, quindi il 45% della popolazione americana hanno seguito i Beatles. Sì, sì, sì, quell'anno, sì, una cosa strepitosa, 45%, sì, una cosa incredibile. Non so se quello sia un record che poi è stato battuto oppure no, probabilmente no. 79 milioni di persone, sì, sì, sì, è stato veramente incredibile. E poi forse hanno fatto un altro record quando poi nel 67 furono chiamati a rappresentare l'Inghilterra per quella trasmissione che praticamente era la prima trasmissione mondiale via satellite, sì, c'era quel satellite Early Bird, sì, forse, che era in orbita, e loro portarono appunto quel brano scritto appositamente, che era All You Need Is Love. Esatto, sì. E anche lì probabilmente fecero una audience simile, probabilmente, perché lì si parlava di tutto il mondo, quindi era più facile fare dei grandi numeri. Ed è anche notevole pensare che loro rappresentarono l'Inghilterra con un brano che inizia con l'inno nazionale francese. Verissimo. Che si può effettivamente pensare che sia una ironia, però alla fine se devi rappresentare All You Need Is Love, allora che cosa fai? Cedi, diciamo, il passo a quelli che sono storicamente i tuoi avversari, no? Dal punto di vista bellico, esatto, e gli dici bene, All You Need Is Love, allora io faccio il tuo inno. Hai detto una cosa molto giusta, efficace. Adesso osserviamo, meglio, sentiamo la vostra musica. Che pezzo ci fate ascoltare? Facciamo Nothing Is Possible. Benissimo. I felt so lost when I found her. When she has found me, I was not there. When she was not there, I was lost there. When she was there, I couldn't find her now. That's what I say. She shoot his bullet, then she kiss me. She makes me fly over the rainbow. She holds my blood just like I'm dying. I call her name so she can bed me now. That's what I say. It's not your heart, it's just the beat of the waves. It's not a thunder, it's a break of the chain. And to meet my love, and to myself, into loving flame. hey, hey, hey, hey. That's what I say. Hey, hey, hey, hey. Nothing is possible. I felt so lost, then I found her. Then she has found me. I was not there when she was not there. I was lost then when she was there. I couldn't find her now. That's what I say. It's not your heart, it's just the beat of the waves. It's not a thunder, it's a break of the chain. To me, my love, and to myself into loving flame. Hey, hey, hey, hey. That's what I say. Hey, hey, hey, hey. Nothing is impossible. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questo brano che poi faremo sentire anche da disco, mi pare. Sì, esattamente, quindi faremo due facce della stessa medaglia praticamente, esatto. Musicalmente parlando. Brano, questa è una specie di ballata, posso dirla così, molto lenta, molto un po' più pop forse. Molto sì. Pop, esatto, non violenta, non potente come i precedenti, sì. Almeno come che hai suonato precedentemente, sì. Chiaramente. Una dimensione diversa, volutamente o no? No, forse non è volutamente, nel senso che siamo abbastanza istintivi nello scrivere i nostri pezzi, e quindi è uscita un po' così, ecco. È uscita bene secondo me. Grazie. Ci abbiamo messo un po' di tempo effettivamente, perché quando l'avete provato questo pezzo qua? Questo ieri? Qualche giorno fa? Ma intendi dire questa sì. Prova che loro hanno fatto? Esattamente acustica? Ah, abbiamo provato una settimana fa. La settimana scorsa. Sì. Perché veramente noi non facciamo mai dei set acustici e quindi possiamo dire che è la prima volta. È la prima volta in assoluto. Sì, nonostante sono appunto diversi anni che suoniamo assieme noi tre. Ah, sì. È la prima volta che ci diciamo esibiamo in un set acustico. E come mai la prima volta? Perché l'acusticità non fa parte del vostro DNA oppure perché non avete mai provato? Non lo so, in realtà, cioè, se devo dirti la verità, quando sono a casa, ovviamente, che suono la chitarra e scrivo dei pezzi così e penso a dei pezzi nuovi, li scrivo acustici. Certo. Li concepisco acustici, però in previsione poi di un... di un arrangiamento più elettrico, più radio star, no? Però comunque partono acustici. In realtà però non ci siamo mai buttati, ecco, in questo campo. Ho capito. Io ricordo una sera che in un locale abbiamo suonato acustici, però sì. Vicino a Reggio Emilia. Diciamo abbiamo suonato elettrici per a volume basso. Questo non è proprio acustico comunque. Era stato quello stesso locale nel quale abbiamo suonato invece in full electric, diciamo, cioè a piena potenza, e abbiamo ammazzato i pesci dell'acquario. Sì, quello. quello che alla fine abbiamo i pesci dell'acquario. Esatto. C'erano i pesci che galleggiavano. Non lo abbiamo fatto apposta, veramente, perché siamo amanti. Era stato il gestore che mi sembra che avesse detto appunto animali. Che c'erano i pesci che... Esatto, e quindi ho detto voi basta. Okay. Avete alzato il volume dei amplificatori. Non l'abbiamo fatto apposta, se avessimo saputo così non avremmo certamente suonato quel volume. Ho capito, quindi suonate, quando suonate forte, non fortissimo da uccidere i pesci, però suonate alla grande. Insomma. Sì, abbiamo, tra l'altro fortissimo. Live abbiamo un volume tendenzialmente alto, tendenzialmente. Perché appunto Cico, come avevi detto tu in apertura, è abbastanza pesante sulla batteria, sì, quindi sì. Noi di conseguenza dobbiamo regolarci sul volume d'altronde di Cico. Un trio, sì. Chitarra, basso e batteria, non può essere non pesante la batteria, deve dare una certa... Certo, sì. Io penso che un trio ti insegni anche proprio come... diciamo, stare sul palco e suonare anche proprio, perché non ti puoi nascondere assolutamente, esatto, non esatto. C'è proprio un modo di nascondersi. Io vedo gruppi alle volte che suonano, sono non so, in 5, in 6, e c'è magari la possibilità per un chitarrista, che magari è il terzo chitarrista o il secondo chitarrista, di mettersi più in ombra, no? Sì. E di avere modo di poter far finta di suonare. Tra l'altro qua c'è un aneddoto, come 5 alle medie, veramente simpatico secondo me, perché io e Massimo abbiamo fatto le medie assieme, e quindi alle medie ci insegnavano a suonare il flauto, no? Certo, non so se sia anche oggi così, sì, penso di sì, c'era il flauto, esatto, e quindi alla fine dell'anno c'era da fare questo saggio, e quindi il nostro primo concerto probabilmente io e Massimo lo abbiamo fatto sopra questo palco alle scuole medie, con il flauto. Io proprio ricordo che non suonavo niente, cioè io sul palco stavo lì col flauto, lo mettevo vicino alla bocca e poi dopo muovevo le mani, le dita, le però dita, senza proprio soffiare assolutamente, assolutamente, perché non sapevo nulla, e questo è stato il nostro primo concerto, mio e di Massimo. Ho capito, e quindi la dimensione a tre non puoi nasconderti, non ti puoi nascondere, assolutamente, infatti. E una cosa vi devo chiedere è questa, sì, la dimensione a tre, tu quando suoni la batteria, Massimo suona la chitarra e Davide quando suona il basso, potete allargare il campo d'azione, fate una specie di demonstration, ognuno il proprio strumento, oppure no? In che senso, scusa? Cioè ti spiego, sì, non so, c'è un pezzo Nothing is Possible, sì, nel pezzo, nell'insieme del minutaggio di Nothing is Possible, è possibile che Massimo, è possibile che Davide, è possibile che Cesare facciano un piccolo pezzo da soli praticamente, allargando il discorso del pezzo per andare a fare dei specie di set solistici? Ma direi di, nella stesura del pezzo forse sì, perché quando una specie di jam session, ognuno proprio, sì, quando diciamo il pezzo è ancora in fase di produzione, diciamo, che lo stiamo ancora arrangiando, allora sì, però dal vivo direi di no, perché comunque ci accordiamo proprio in modo abbastanza preciso. Avete dei tempi prestabiliti, assolutamente, sì. Cioè, non avete libertà di andare oltre, uno aspetta, non so, il tuo rullato, oppure il gioco di Davide al basso, oppure la tua svisata alla chitarra. Io credo che tutte quante queste cose succedano e che siano programmate comunque e che siano integrate nel brano. E quindi non c'è un momento veramente di libertà totale su questo. Ma la nostra libertà forse è quella lì. Ah, ho capito. Cioè la libertà c'è all'inizio, quando il pezzo si deve costruire, sì, poi a un certo punto si stabilizza, diciamo. Ho capito. Non c'è più, cioè, è sempre così dopo. Sì, sì, sì. Cioè non c'è mai un pezzo, perché effettivamente quando io prima suonavo con questo gruppo blues era tutto molto elastico, cioè volevo intendere questo, esatto, io. C'era, non so, ad esempio, a un certo punto c'è questo assolo e allora l'assolo non sai mai quanto tempo dura, cioè quante battute dura. Invece con noi le battute sono sempre quelle e non c'è proprio mai la possibilità di poterle cambiare, ma non c'è la possibilità proprio perché noi non vogliamo cambiarle. Ah, e se cambiano è perché qualcuno di noi si sbaglia, allora dobbiamo un attimo venirci incontro. Però insomma, la solo di solito sono 6 battute e sono sempre 6. E poi ognuno le conta come vuole, perché alle volte uno dice dice 12, però l'importante poi alla fine esatto, è chiudere capirsi. E alle volte ci sono anche brani che durante, diciamo, la diciamo scrittura, la stesura così, io quello che non so, per me è la strofa, per Massimo può essere il ritornello, ecco. Ho capito, ho capito. E quindi benissimo, quindi le cose sono prefissate, non si può andare oltre praticamente. Non vogliamo io andarci. Volevo intendere quello praticamente. Sì, sì, sì, sì. Parliamo di un'altra cosa, il discorso delle tracce, come vengono predisposte. Non sono messe a caso le tracce, sono state messe in quella posizione là perché? Beh, secondo me... Il primo pezzo l'abbiamo detto perché doveva aprire la finestra, scaldare la gente, sì, scaldare il pubblico. E poi? Secondo me c'è tutta... noi siamo abbastanza coscienti del mettere in fila le cose, non solamente per quanto riguarda il discorso delle tracce all'interno di un singolo, sì, album, ma proprio per quanto riguarda anche il fatto di mettere in fila gli album. Ho capito. Cioè capire che cosa stiamo facendo adesso, cioè abbiamo fatto 4 album così, sì, e adesso il 5° album che cosa potrà essere visto nell'ottica degli altri 4. Sì. E quindi c'è proprio una coscienza, secondo me, di questa cosa qui. Anche il fatto che i primi 3 album avessero un titolo abbastanza lungo, Dancing Le Cibao Cibao il primo, More Traditional Than You il secondo, For What Might Have Been il terzo, al quarto abbiamo detto bene, facciamo un titolo corto, Endless Morning, e poi di lì si va nel mettere in fila i pezzi E io lì proprio non so proprio come fare, infatti non partecipo mai a questa cosa perché non ho idea. Allora, diciamo che pensavo che fossi io, ma io invece pensavo che fossi tu, Davide. Chi è che li mette in fila allora? Allora sarà lui, Massimo. No, beh, diciamo che c'è stato nei primi tre album un po' un disegno, diciamo, di aprire con un pezzo che secondo noi poteva essere il pezzo importante, l'apertura, un pezzo importante, e di concludere con una cover, c'è più o meno questo disegno. E nell'ultimo disco questo disegno tutto sommato è rispettato, perché devi sapere che noi abbiamo pensato fin dall'inizio, proprio quando abbiamo concepito il primo disco, abbiamo detto dai, stavolta la cover, cioè cerchiamo di suonare un pezzo rock and roll, no? Certo. Facciamo proprio un pezzo rock and roll nostro, no? Perché noi abbiamo sempre concluso con delle cover rock and roll. Dal primo disco? No, nell'ultimo. E però alla fine non siamo mai riusciti in definitiva a scrivere una canzone di rock and roll. E fallendo dieci volte abbiamo costruito questo album, insomma. E alla fine abbiamo messo in coda all'ultimo album un pezzo che secondo noi poteva essere il degno sostituto della cover rock and roll, ecco. Benissimo. Che è un pezzo appunto che canta Davide. Benissimo. Ok, 22:58, quasi 23, manco qualche minuto alle 23. Dopo le 23 ci sarà un giochetto. Ah. I 5 dischi o 3 dischi da portare su un'isola deserta, che è il solito giochetto che Cesare si ricorda che abbiamo fatto qualche mese fa. Quando è venuto qui con Frigeri. Però adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Railway Girls avete scelto, la traccia numero 7. Okay. La sentiamo e poi ne discutiamo un po'. Benissimo. Okay? Clear. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ci stiamo piacevolmente conversando con i Radio Stars, parlando del loro disco, parlando della loro musica praticamente. Questo pezzo, Railway Girls, come è nato, come si è sviluppato, Cesare? O Cesare, o beh, Davide, o Massimo? Ah beh, dipende, se vuoi sapere la musica non puoi chiedere a me, perché io non lo so. Secondo cioè, me è nato in sala sia... prove, se non ricordo male. Proprio uno di quei pezzi che sono nati in modo molto istintivo in sala prove. Ecco. Io della musica non mi ricordo nulla. Del testo te lo ricordi? Del testo vagamente, devo dire la verità. Railway Girls, sì, ci sono dei riferimenti londinesi, insomma si parla di Camden, perché io sono appassionato di Londra, ma tutti e tre siamo appassionati di Londra. Quindi si parla di Camden, si parla di Mount View Road, che è un posto dove sono andato in ferie nel 2004 con la mia ex fidanzata. Poi non mi ricordo neanche bene il testo, quello che dice, però insomma... Da Londra ho sviluppato questa cosa qui. Forse è il brano che è più esterno all'album come testo rispetto a tutti gli altri. Ok, allora facciamo la solita domandina nostra che facciamo ad ogni trasmissione con la band che viene ospitata. Facciamo i tre dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, qualsiasi genere volete, dei dischi che vi hanno interessanti per voi, fondamentali, o i dischi che adesso vi piacciono. Un disco dei Beatles ce lo mettiamo sicuramente. Una cosa fondamentale, tre a testa, e non si può copiare questo regolamento. Non si può copiare. Assolutamente no. Chi inizia allora? Perché chi inizia sicuramente è avvantaggiato. È avvantaggiato. Non c'è una moneta, però. Massimo, vai. Va bene, vai, allora Massimo. Io parto con un disco dei Beatles. Che è difficilissimo scegliere, perché tutti. Quale c'è tutti. Il cofanettone. No, porto... Dai. Il doppio bianco, così ne ho due. Come mai doppio bianco? Perché così ne ho due. Da poter sentire su Isola Deserta. Più canzoni da poter sentire. Qualcuno dice che l'album effettivo più bello dei Beatles, anche non è la Bibbia del rock, però potrebbe anche essere la Bibbia del rock. Ma io, se devo dirti il mio album preferito dei Beatles, sarei veramente molto in difficoltà, perché comunque... Ognuno ha dato determinati... Ognuno ha dato qualcosa di veramente importante. Esatto, ecco, sì. Quindi il White Album, l'album bianco, ha dato molto, ci sono cose meravigliose, qualcosa molto trasgressiva, un po' di tutto c'è dentro. Ma sapete che ho notato una cosa io? Dimmi. Che forse non si nota Sono sempre in sottofondo, sono sempre loro. Che in latino album vuol dire bianco. Ah, questo non lo sapevo. Quindi album bianco vuol dire bianco bianco. Proprio, quindi John Paul e company hanno deciso di intitolarlo così perché... Magari non lo so. Ho stato George Martin. Ci ho fatto caso e ho detto, ma accidenti, album. In realtà poi... Il titolo è poi The Beatles, no? The Beatles, esatto. The Beatles, esattamente. Tutti lo chiamano l'album bianco. Infatti. Vai, allora, Massimo. Come secondo album mi porto un album dei Rolling Stones. Quale? Mi porto Sticky Finger. Che bello è Sticky Finger. Hai la versione originale, quella con la cerniera, no? No, purtroppo no. Pochissimi senza l'altro. Cerniera, sì. Favoloso. Bellissimo Wild disco. Un pezzo favoloso, Wild Horses. Sì. Ma lì ce ne sono tanti. Ci sono tanti di belli, molto, molto, Frank molto Sugar, belli. Cioè, di tutto, c'è di tutto. Un album incredibile, epocale. E poi come terzo disco io mi porto un disco dei Pink Floyd. Quale? Atom Heart Mother. Ah, finalmente. Io ti dico una cosa, sono 5 anni o 6 anni che facciamo Rock Wave con le band e nessuno ha mai scelto, scuso me che io amo a follia questo disco. È bellissimo questo disco. Io lo ascolto tanto anche adesso. È la suite, cioè, la lo suite metto su, è meravigliosa. Sì. If. Hanno scritto mai più un pezzo come If? No. Ma secondo me è un album molto, cioè, per me che lo ascolto, emotivo, cioè nel senso che proprio non so, cioè trasmette quasi dei sentimenti, direi. Psicadelico. Psicadelico, esatto. Psicadelico, e perché loro l'hanno detto, per noi non è un album che vale. E loro infatti hanno detto così. Hanno detto male di un album loro. Sì, sì. E If... va bene, non importa, non ce l'abbiamo mica. Beh, ne sei un altro, va sempre bene. Va benissimo lo stesso. Sì, è fondamentale anche la copertina. Quella è rimasta storica. Sì. Chi aveva quell'idea incredibile? Abbiamo un altro pezzo storico in sottofondo che Michele ha scelto. L'idea di una copertina in quel modo, questa mucca atomica, il cuore atomico, incredibile. Io ho letto, non so se forse lo sapete meglio di me, hanno fatto la pubblicità di questo disco, di questo, e hanno scelto la famosa mucca. Era una mucca, cioè aveva un suo nome. Tutto ha un nome, sì, sì, un nome, sì, sì, aveva un nome. Aveva scelto da un allevatore nei sì, paraggi sì. di Londra. Aveva è vero. Un nome, non era mica un'invenzione. Bene, fantastico, in effetti. Però... Quindi ho detto Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd. Tocca a voi adesso, voglio proprio vedervi. Vai, Davide. Perché ti chiamo sempre Daniele? Non lo so. Davide, non c'è problema. Allora, vabbè, Atom Armada è eccezionale. Ma non puoi copiare. No, io scelgo anche un pezzo. Il gruppo si può copiare. Cioè, basta che non scegli lo stesso disco. No, ok. Allora, i Pink Floyd li inserisco anch'io. E vabbè, può essere banale, ma io prendo The Wall. Come mai hai scelto The Wall? L'album assolutamente di Roger Waters al 100%. Perché forse è stato il primo disco che... mi ha appassionato veramente tanto. L'ho ascoltato per, secondo me, 6-7 mesi in maniera continuativa. Quindi adesso forse riascoltarlo adesso può sembrare ripetitivo, forse alcune volte, cioè già molto tempo che non lo ascolto, però insomma ci sono affezionato e mi ero fatto anche la cassettina con le scritte alla The Wall, ci ho messo un giorno intero a fare tutti la i ricordo titoli, anche quella cassetta tutti lì. I titoli cercando di copiarli. È già difficile copiare tutti i titoli, è molto piccolo e molto complicato, molto complicato. Quindi The Wall, insomma, per sì, me esattamente, The Wall. Le cassette da 90, poi cassette da 90. Ho visto una cifra iperbolica di vendite, guarda, ha venduto 25 milioni di copie, mi pare. Non è mica poco, con per un album simile. Solamente The Wall, parlo solo sì, di The Wall. Sì, solo The Wall. E secondo io, un'altra band che dopo, cioè che mi hanno appassionato per molti anni, Chico mi guarda impaurito. No, i Guns N' Roses. Ah, i Guns N' Roses. A me mi sono piaciuti moltissimo. User Illusion 1 e 2, li prendo tutti e due perché non si possono prendere da soli. Quindi. Esattamente, sono d'accordo con te. Quindi. Sei già a quindi 4 dischi. Ha scelto due doppi. Appunto, sono 4 dischi. Beh, Guns N' Roses all'epoca hanno fatto delle cose meravigliose. E devo dire, insomma, sono andati anche a vederlo dal vivo a Torino all'epoca, insomma. Cosa ti ha dato un concerto di Guns N' Roses? A me sono piaciuti tantissimo, cioè li seguivo molto, poi si sono dispersi. Sì, poi a dire il vero li ho un po' persi, io non so neanche se suonano ancora. Forse sì, hanno fatto un disco di recente l'anno scorso, ma hanno avuto delle critiche incredibili perché... Per anni e anni tendevano questo disco, quando è uscito è stato un flop colossale. Ma forse anche Slash ha fatto una cosa di recente, mi sembra. Più bella, secondo me, forse sì. Del disco dei Guns. Ma aveva anche, se non ricordo male, delle partecipazioni importanti. Ricordo Michael Jackson. Anche con Michael Jackson. Importanti, sì. Quindi dopo tu hai perso di vista un pochettino i Guns N' Roses. Sì, non un po' che ma io penso che anche loro abbiano perso di vista te. Effettivamente. Hanno perso di vista molta gente, Guns N' Roses. Allora, abbiamo finito? No, ne è ancora no, uno. Il terzo. Allora, il terzo è un gruppo che ho ascolto da qualche anno, che mi piacciono molto, sono i... No, quelli non li importano. Un altro doppio. No, i Teenage Fan Club. Bel gruppo i Teenage Fan Club. Un gruppo pop... Che, vabbè. No, è interessante. Mi dico, mi danno del matto, ma no, interessante. No, sono veramente pop. A me piacciono molto. Io non trovo un pezzo brutto di Teenage Fan Club. Saranno orecchiabili, non lo so. Però sono. Cioè, vuol dire che sono orecchiabili? È un pregio. Sono belli. Tra l'altro, non forse mi sbaglio, ma gli Oasis penso li mettano anche fra i loro. Cioè, non ispiratori, però insomma hanno una grande considerazione di questa band che non ha avuto un successo planetario come... No, i primi dischi in Inghilterra hanno venduto però... A proposito degli Oasis, che ne dici della nuova immagine degli Oasis, del nuovo gruppo? Il nuovo gruppo, allora io mi sono BDI. Ho ascoltato solo il singolo, immagino. Sì, il singolo è molto interessante, molto Oasis praticamente. Mi è piaciuto molto, però non conosco poi l'album totale. 70 minuti e passa, un po' troppo lungo forse. Non li ho ascoltati, no. E uno dei fratelli, l'altro fratello almeno sta facendo un discorso musicale con gruppo folk, e dicono molto interessante. Adesso vedremo quando uscirà. Ok, tocca a te, tocca a me. Cesare. Beh, io sono un fan dei Beatles, quindi dovrei dire dei dischi dei Beatles. Però vabbè, inizio con il dire un album dei Pink Floyd, perché anch'io sono un fan dei Pink Floyd. E se devo scegliere, scelgo Obscured by Clouds. Ah, come mai? Che è un disco veramente che non contiene nessun brano noto, direi. No, non c'è un brano che veramente sia diventato famoso per il grande pubblico, però è veramente misterioso, secondo me, e ci sono dei temi che secondo me si avvicinano abbastanza, adesso non voglio essere presuntuoso, ma a Endless Morning. Ci sono anche delle citazioni in certi punti, delle cose, ed è proprio un disco bellissimo, ecco. E poi vabbè, mi viene da dire il trittico, vabbè, non posso dirne più di tre, veramente. Però Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper. Ma devi scegliere tutto, uno, eh? Dei quattro, poi scegli uno di quattro. Revolver. Perfetto. Okay, perfetto. E poi come terzo, non saprei veramente, però mi piacciono molto Simon Garfunkel, quindi Bridge Over Troubled Water. A proposito di Bridge Over Troubled Water, lo sapete che adesso è uscita la nuova edizione, no, deluxe? No, non lo sapevo. Che sono 40, dunque del 70, quindi Bridge Over Troubled Water sono 31 anni, quindi 30 anni dall'uscita dell'album. È stata rifatta l'edizione deluxe, si dice, perché Paul Simon ha fatto un nuovo disco. Ah, e quindi per spingere, per rinnovare. Poi si dice anche che Paul Simon e Art Garfunkel gli faranno un concerto quest'estate da qualche parte nel mondo, può darsi anche in Italia qualche data. C'è un ritorno di fiamma fra di loro, praticamente musicalmente parlando. E Bridge Over Troubled Water è un album meraviglioso. È meraviglioso, secondo me. Ci sono dei brani proprio. E poi alla fine scopri che certe cose che ti piacciono. Non so, io sono appassionato comunque anche di architettura. Sì. E allora mi piace Frank Lloyd Wright. E poi alla fine scopro che loro hanno fatto un brano su Frank Lloyd Wright. E questo è vero. E sì, allora, cioè, proprio trovi delle cose che si intrecciano e dici: è incredibile. E Paul Simon è un grandissimo artista, un grandissimo creatore di melodie. Io penso che anche comunque Garfunkel sia veramente grandissimo, perché ho sempre pensato che fosse un po' il gregario, un po', diciamo, quello fortunato che si trova a collaborare con un genio della musica. E poi alla fine vedi concerti come ad esempio quello in Central Park e tu proprio vedi lui e vedi che è proprio una persona talmente tanto illuminata, luminosa, che è veramente fantastico. E quindi sono veramente in due, non è solamente esattamente Cesare, ma secondo te, senza la voce che andava su di un bridge di Garfunkel, che pezzo era? Sì, infatti, certo, esatto. Ci doveva, ma senza la sua presenza, tu proprio lo vedi e dici: ah, è veramente una persona che vorresti abbracciare. È vero, perché io lo ricordo anche in versione reggae, Bridge Over Troubled Water, fatta in versione reggae, bella, però mancava la voce di Art, quando va su sì. Da una colorazione diversa. Ci dovevano essere quei due, assolutamente. Ok, così come Ringo per i Beatles, cioè anche lui ci deve essere, perché Ringo aveva una batteria in una certa maniera, doveva suonare così doveva essere, non poteva esserci nessun era altro. Troppo bravo per i Beatles, certo. Sì. E Ringo doveva suonare così la storia insegna. Sì. Poco da fare. Charles Watts suona un po' diverso, però, da Ringo. Sì, è vero. Decisamente diverso. Però anche lui forse ha un ruolo importante nei Rolling Stones. Sì, direi sì. Poi anche ha fatto tante cose anche di jazz, lui è un standard di jazz, è una persona... Invece Ringo si è limitato, famoso pezzo, famoso disco che ha fatto, un solo disco di grande successo poi, negli anni 70. Poi ne ha fatti altri, però... sempre come ospite, non è propriamente... Certo. Poi adesso viene in Italia fra qualche mese, hai visto, con grandi star. Sembra sempre che quando si parla di jazz, cioè... si dice sempre: ma questa persona è brava perché comunque è anche un gruppo jazz. Però io non credo tanto a questo assioma, veramente. Dici no? No, nel senso che alla fine penso che si possa essere bravi anche senza fare della musica jazz, e si possa essere molto più bravi senza fare della musica jazz. Ho capito. E cosa ne dici allora di Phil Collins con i Genesis e con i Brandy Dix? Cioè, quindi la musica prog, Il progressive. Prog. Non so se ci piace la musica progressive, almeno forse non certa musica progressive. Io quando incontro gente che apprezza la musica progressive, me la mettono sempre in una situazione di competizione. Mi dicono: perché i Beatles non sarebbero stati in grado di fare quello che hanno fatto i Genesis, ecco, proprio di, diciamo, fare proprio, quindi, cioè, diciamo, suonare, eseguire. E secondo me è un atteggiamento calcistico che non ci sta nella musica, cioè, no? Sì. Perché allora uno poi dice: vabbè, ma neanche Ray Charles sarebbe stato in grado di fare quello che facevano i Genesis. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Per chiudere, per chiudere il discorso, c'è un grande ritorno del progressivo adesso. Sì. In tutto il mondo, non solo in Italia. Ma perché c'è sempre questa cosa dell'essere bravi a fare bravi, diciamo, a, diciamo, usare la chitarra, usare la batteria, bravo, bravo, essere veloce, essere. Però alla fine la musica è un'altra cosa. E infatti si vede che queste persone, adesso non voglio criticare nessuno, certo, certo, però insomma tutti quelli che io incontro mi dicono: perché questi qua saprebbero fare quello che gli altri non sanno fare? Cioè, tipo 2-1 vinci tu. C'è un atteggiamento un po' strano nei confronti della musica, che non è quello che noi condividiamo, secondo me, almeno io. E chiudiamo il discorso qua. Sì, non voglio. Ma ragazzi, King Crimson hanno fatto delle cose meravigliose. Ah, ok. E anche quello possiamo identificarlo come progressive, può darsi. D'accordo, Crimson Cream, Highland, sono capolavori assoluti, Lizard, o se no gli stessi Van de Graaff Generators. Beh, io poi ovviamente parlo senza poi comunque diciamo sapere nulla di tutti quanti questi musicisti. Cioè io poi il prog non l'ho poi mai ascoltato, quindi adesso facciamo qualcosa vostro, sentiamo il pezzo dall'album, sentiamo quello che avete fatto dal vivo qualche minuto fa. Nothing is Possible, mi pare che sia quello in no facciamo Voice Poetry, facciamo. Ah, ma dal vivo lo fate? No, da disco praticamente. Anche no, dal vivo. Cioè, non so, dal disco, perché noi abbiamo deciso i pezzi, io e Davide abbiamo deciso i pezzi dal vivo e Cesare quelli da disco, ma non ci siamo da consultati disco, prima. In scaletta c'è Nothing is Possible adesso. Ah, ok. La traccia numero 6, adesso la sentiamo. Ok. E l'abbiamo fatta anche dal vivo. Esatto. Ok, ci siamo. abbiamo, dobbiamo parlare un po' della differenza con Office Impossible dal, dal vivo e Office Impossible dal disco praticamente. È una versione diversa, ma interessante, sia dal vivo sia dal disco. Chiaramente dal disco ha più potenza, più vigore. Sì. Beh, noi siamo molto più abituati a suonarla come l'avete sentita nel disco. Con tutti gli strumenti, non dico a palla o quasi. Anche perché, come abbiamo detto in apertura, è una delle nostre prime esibizioni dal vivo in modo acustico. Un grande onore comunque, per noi allora. Certo. Anche se molti dei pezzi appunto nascono proprio su una chitarra acustica magari. Non so, io mi sento molto più abituato a suonare la chitarra elettrica che non la chitarra acustica. E devo dire che ho anche un suono che è sempre quello, penso, dagli esordi, quindi proprio quindi suono con un suono che lo sento nelle mie orecchie, che mi è familiare, ecco. E quindi forse per questo che mi dà più, mi sento più a mio agio, ecco, suonando con una chitarra. Però non ti sei comportata male neanche con la chitarra acustica. Grazie. Neppure Davide. Beh, Davide suona sempre con la chitarra, col basso elettrico, quindi. Sì. Non quello acustico, non lo suoni. No, però anch'io come Massimo mi trovo bene con la chitarra elettrica, perché a casa suono solo la chitarra elettrica. Praticamente siete due chitarristi, praticamente. Beh, insomma, sì, diciamo che sì, il basso lo suonicchio a casa, le prove naturalmente, ma anche io a casa mi diletto con la chitarra. Ah, benissimo. E se Cesare si diletta con le percussioni o no? Boh, mica poi tanto, alla fine anch'io, a me piace anche a me suonare comunque la chitarra, avevo una Fender. avevo una Telecaster veramente, alla quale avevo tolto la sesta corda in alto e l'avevo tenuta accordata in sol e facevo tutti quanti i brani degli Stones. Ah, bello, bello. Perché bello. Riuscivo a farli abbastanza bene, perché sono, cioè devi praticamente muovere solamente due dita. Ho capito. Esatto, e facevo tipo Start Me Up, Brown Sugar e quelle cose lì. La chitarra e la batteria, sì, alla fine non è che mi interessi tanto. Però nel disco parlavamo appunto con Massimo prima di iniziare la trasmissione, mentre tu eri andato un po' fuori, e fai qualche stop and go più delle volte, è positivo secondo me, cosa dici? Sì, non lo so, io a me viene di fare delle cose in modo spontaneo, poi magari sento dei dischi che ho da 15 anni e scopro degli stacchi che io ho fatto nel nostro ultimo LP, e quindi capisco che automaticamente certe cose che tu ascolti ti escono dopo magari 10 anni che non le ascolti, track, le vai a infilare dentro un brano nuovo. Inconsciamente? Inconsciamente, sì, certo, sì, certo. Assolutamente. E non saprei bene parlare di come suono la batteria in modo spontaneo, ma ti diverti, quello sì. Mi diverto assolutamente, sì, tutti molto quanti divertente. Ci divertiamo, sì, sì, sì, quella sì, è proprio quella è la nostra benzina, esattamente, nel senso, no, c'è divertimento, sì, passione, sì. Passione e divertimento si avvicinano, secondo me, cioè sapere proprio di magari creare qualcosa che poi verrà comunque suonato dal vivo, verrà messo sopra un album e la gente lo ascolterà e lo apprezzerà, insomma noi comunque facciamo le cose per essere apprezzati, perché ripetiamo che questo disco qua nuovo, quello Endless Morning, è totalmente prodotto da voi, praticamente è totalmente prodotto da voi. Sì, è totalmente prodotto da noi, l'abbiamo effettivamente prodotto noi, proprio anche dal punto di vista economico, no? Questa volta quindi è già insomma un discorso un po' pesante, forse. Beh sì, diciamo che poi alla fine non è stato un grosso problema economico, e adesso vendendo comunque gli album riusciamo a recuperare un pochino, facendo i concerti che non facciamo. Massimo, vuoi dirci per favore le prossime date che abbiamo? Le prossime date, i nostri compleanni, dai, i nostri compleanni. Tu quando è che compi gli anni? Io il 17 settembre. Tu, Davide? 23 dicembre. 30 luglio io. Con le date. Con le nostre date. No, però per gli scherzi dovremo suonare probabilmente a Vinilmania. Questo è positivo. Esatto. Non so bene quando, ma comunque suoneremo a Vinilmania. E poi siamo in cerca un po'. Perché effettivamente stiamo anche scrivendo poi dei pezzi nuovi. Quello sì. Quello faremo, sì. Anche sentire? Faremo anche sentire. Sì. Esatto. Che saranno poi quelli che andranno a comporre il nostro album nuovo, che sarà il quinto. Sì. Il quinto, tu dicevi all'inizio, cioè all'inizio verso la metà trasmissione, sì, che può darsi che ci sia una evoluzione, un piccolo cambiamento, un progresso, cioè la strada deve sempre andare avanti, praticamente. Sì, la strada deve sempre andare avanti. E perché avete già scritto dei pezzi nuovi? Assolutamente, sì, sì, sì. 8-9. Però. Io credo che ci manchi forse tipo 3 brani per poterne scrivere qualcuno da poter buttare via, quelli più brutti che abbiamo già scritto. Ho capito. Perché di solito funziona così, cioè tu ne hai tipo 10, sì. Allora 10 vanno bene per poter comporre un album, ti mancano, certo, quelli da buttare via, però ti mancano quelli da sbattere via, e allora comunque devi comunque sbatterne via 3, allora ne fai 13 e poi 3 li butti via. di solito facciamo così più o meno. E poi li ripeschiamo nel disco. Questa era un po' una tradizione nostra, di ripescare, esatto, i brani buttati via dal però disco. Però questo album qua in End Sport non è proprio successo. Veramente c'è un brano che abbiamo sempre lì. Che io penso che siano tipo 15 anni che ce l'abbiamo lì, che prima o poi ci metteremo a diciamo costruirlo e scriverlo, no? Sai, Ride on Fire. Quello veramente è sempre pronto, è sempre lì che sta per nascere, però, però non è ancora, no. Se lo teniamo come bonus quando veramente non avremo più nulla da dire, allora usciremo con questo che è veramente molto bello. Quindi sono, avevi detto 5, 6, 7, 8 pezzi pronti, già sì, pronti, sì, già sì, prestabiliti, sì, sì, già formati. Esatto, esatto. Il testo non so, c'è? Di alcuni sì, di altri no. Di alcuni sì, di altri no, infatti. Ma la musica c'è. La sì, musica assolutamente sì, è pronta. Ecco, è perfetto, questo è positivo, quindi arriverà il momento in cui ci sarà un nuovo album. Sì, assolutamente. Pensavamo di far uscire prima un nuovo singolo, veramente. Ci credete ancora nei singoli? Ma io credo che ognuno di noi creda abbastanza nella discografia tradizionale, anche se tutti quanti dicono che è morta. In crisi. Alla fine poi però bisogna dire anche una cosa, che questo nostro ultimo album, Endless Morning, è stato pubblicato per un'idea di Massimo con una licenza Creative Commons, che permette quindi a chiunque lo voglia di poterselo scaricare gratuitamente da internet. Siccome abbiamo scritto anche noi nel nostro sito. Esatto, e non solamente diciamo scaricarlo da internet, ma anche farne diciamo delle copie e poi distribuirle, pubblicarlo sul proprio sito internet. Senza che appunto questo abbia però dei coinvolgimenti economici, cioè non puoi copiarlo e venderlo. Vabbè, qui adesso si scende nel parlare della licenza Creative Commons. Ho capito. E questo per dire, mi sono perso. Questo per dire che il nostro album è liberamente scaricabile dal nostro sito internet. Citiamo il sito, visto che ci siamo. Il sito è www.theradiostars.com. Perfetto, quindi cliccando sul vostro sito possiamo trovare le recensioni, possiamo trovare le notizie vostre. Esatto, si può scaricare tutto il nostro ultimo album. C'è un link che praticamente rimanda a un altro sito di hosting, direi, no? Sì. Esatto. Sì. Che si chiama Jamendo, esatto, e si può scaricare l'album. E noi abbiamo pubblicato questo ultimo LP con anche dentro un DVD, proprio perché chi invece sceglie di diciamo comprare la copia fisica può avere qualche cosa in più. Certo. Per poter differenziare comunque chi sceglie di prendere la copia fisica da chi invece sceglie di scaricarsi gratuitamente l'album. Perfetto. Il DVD contiene proprio più di un'ora diciamo di interviste, registrazioni live, noi che facciamo le prove. È interessante. L'avete montato voi tutto quanto? Sì, fatto tutto da noi. Ah, benissimo, una cosa molto positiva. Ok, visto che sono 23:30, quindi mezz'oretta ancora a disposizione per suonare sicuramente. Che cosa cominciamo adesso? Voice Poetry. Perfetto. What if I sing my precious song clear and loud in the early prime? And what if I ask my words to rhyme, not each other but with my love? You walk away, but it's for me that you stay. What if I sing my precious song clear and loud in the early prime? What if I ask my words to rhyme, not each other but with my love? You walk away, but it's for me that you stay. Winter falls down and I am glad. I take a long rest, sleeping, waiting for the sun. What if I ask my words to rhyme clear and loud in the early prime? What if that's everything called about? You gotta say everything called down. You walk away, but it's for me. Winter falls down and I am glad. I take a long rest, sleeping, waiting for the sun. Winter falls down, and I am glad I take a long rest. Sleeping, waiting for the sun. I take a long rest. Sleeping, waiting for the sun. I take a long rest. Sleeping, waiting for the sun. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sì, leggevo nelle... Questo, innanzitutto parliamo di questo pezzo, questa versione acustica, versione da Rock Wave, chiaramente molto interessante, molto bella, non dico una ballata, però un pezzo quasi cantoreggiante, posso dire questo? Questo era anche il singolo che è uscito nel disco, anzi è uscito proprio anche come singolo separato proprio fisicamente proprio era fisicamente. Proprio però è abbastanza non dico cantoreggiante, però quell'andamento molto americano, posso dire, sì. Mi posso permettere per Bacco assolutamente. Anzi, sì, anche se siete beatlesiani. Ah, mi piace anche il country, quindi ecco, perfetto per me, va bene. No, sì, è effettivamente un pezzo un po' diverso rispetto ai nostri tra virgolette soliti brani. E in questo brano ci ha dato una mano particolarmente un nostro grande amico veramente, Emiliano Fantuzzi, okay. Che in questo brano veramente ci ha dato veramente una mano, e sull'album suona anche la chitarra. Sì, forse è l'unico pezzo dove c'è un apporto esterno alla band. In questo brano c'è un piccolo solo di Emiliano. Sì, una cosa che ho letto proprio prima di cominciare la trasmissione, non abbiamo citato ancora mi pare. Perché fate le cover dei Joy Division? Fate una adesso? Dunque no, abbiamo fatto una cover dei Joy Division perché abbiamo partecipato a una compilation. A una compilation. Compilation. Sì. Quindi l'anno scorso, non è tanto tempo fa. Sì, esatto. Tra l'altro canto io. Infatti è vero, abbiamo detto che non canto. Abbiamo detto che è falso. Canto io. E come mai non avete citato come dischi di rappresentativi di Joy Division? Perché non siamo dei fan dei Joy Division veramente. Ci hanno chiesto di partecipare a questa compilation e noi, forse per avere un po' di visibilità, abbiamo accettato, ma non siamo dei fan dei Joy Division. No, io no. Neanche io. Però avete accettato a fare la compilation. Cioè non io non li avevo neanche ascoltati. Non li conosco. Ah, non li è che non è che li ho sentiti e non mi piacciono. Proprio non li ho mai ascoltati in maniera approfondita. Vabbè, chiaramente i pezzi più conosciuti, sì, però non io li conoscevo perché ho comunque Closer da un sacco di anch'io ce l'ho, anche i vinili io invece ce l'ho in CD, sì. Però non sono mai stati veramente i miei preferiti. No, proprio per niente. E abbiamo fatto questo ultimo brano qua che è un pochino diverso effettivamente perché io non suono la batteria, io canto. Come mai hai cantato in questo pezzo? Ah, ho cantato perché non lo so, ci siamo scambiati qualche email e abbiamo detto, forse sono stato io, posso cantare? Posso detto sì, vai. Cantarlo io. E alla fine l'ho cantato io, non lo so perché. Ritornando un po' indietro nel tempo, abbiamo detto prima, ma molto indietro, il 20 settembre del 1998 vi siete esibiti al concerto di apertura del gruppo degli U2. Sì. Com'è stato quel? Oltre 100.000 persone erano davanti. Sì, 150.000. Qua la biografia cita 100.000 persone. 150 meglio. 50. Che poi 153.228. Esatto. Perfetto. Allora, l'idea di potersi comunque esibire davanti a queste 160.000 persone era veramente una emozione, perché 170.000 persone sono veramente una marea di proprio enorme. E quindi niente, c'era già questa voce che girava da qualche tempo prima, ci dicevano si sta preparando qualcosa di molto grande per voi probabilmente, e poi fino all'ultimo non lo sapevamo perché c'è stato questo giro di telefonate, no? Non mi ricordo bene, tu Massimo ti ricordi qualcosa di più? Il ricordo tu è bello stampato, quello di Massimo? No, io se devo dirti la verità, anch'io ho percepito l'emozione prima all'idea di dover suonare davanti a 190.000 persone. Però in realtà quando mi sono trovato di fronte a queste 200.000 persone, in realtà, cioè, è come suonare davanti a 100 persone, insomma. C'è l'emozione di salire sul palco è uguale a quella uguale, identica, di, 100, che... di 110.000 persone. Ma li avete intervisti Bono e soci oppure no? No. No. No, no, infatti in un monitor, no. in un monitor. L'ho visto in un monitor, esatto. L'avevo immaginato questo. Sì. Però insomma, però. No, poi è bello perché in realtà noi abbiamo saputo, c'erano appunto ste voci, ah, ci sono delle novità per voi, più o meno avevamo capito, però in realtà la notizia ufficiale del tipo dovete suonare al concerto degli U2 l'abbiamo ricevuto, se non ricordo male, il giorno prima mi hanno telefonato per dire volete suonare, sì sì, vogliamo suonare così, bene, allora vi diamo poi i dettagli, così ci ha spiegato dovete venire là verso la talora, così, però in realtà non ci hanno mai consegnato i pass per poter arrivare, sai, noi dovevamo fino all'area del concerto l'area del concerto con la macchina per poter scaricare i nostri strumenti. E quindi vabbè, noi alla mattina, tipo forse al pomeriggio, eravamo a casa, guardavamo la televisione, proprio una marea di persone, così, finché siamo partiti per andare a fare il concerto senza pass. Perfetto. E abbiamo superato tutti i blocchi con il giornale, con la... facendo vedere la foto. Con la nostra foto. Con la nostra foto. Detto, vede, siamo noi. Quindi dobbiamo comunque suonare questa sera. Perfetto. È stato veramente. E siamo arrivati sotto il palco. Esatto. Così. E quello stesso giorno ricordo che io trovai dei messaggi nella mia segreteria telefonica di insulti che non ripeto. E io proprio mi sono detto: ah, fantastico! vuol dire che questa volta è andata veramente molto bene. Proprio così, gente che proprio chiamava e diceva una cosa e poi riattaccava. Davide, non hai detto niente di questo? No, sì, i ricordi sono anche i miei questi. Una cosa che mi è rimasta impressa, la mattina eravamo andati da Vito che è un negozio di strumenti musicali, ho capito che cosa ti riferisci. Lì c'era una scuola media e i ragazzini, avendoci visto dalla finestra, si erano affacciati salutandoci, insomma. E dicendo grandi. Sì, mi ricordo che abbiamo anche fatto la via principale di Scandiano, che è il nostro paese. Veniamo. E la gente usciva da tutti i vari negozi e si diceva grandi. Sì, ti ricordi che siamo andati dal negozio di dischi fino in piazza? Perché poi il giorno del concerto era appunto uscito un articolo in prima pagina del resto del Carlino, il giornale, con la foto. Vuol dire, veramente bello. Una notizia di quel genere, famosissimi, immediatamente. È stato veramente molto bello. Gli insulti nella segreteria poi sono veramente il top. Siete diventati celebri per quello. Vabbè, questo si parla del 1998, chiaramente. Esatto. Sono bei ricordi, non è fantastico. Sì. E poi un'altra cosa che ho letto, le famose 15.000 copie di quel famoso di quella compilation. Esatto, 15.000 copie di una compilation. Noi siamo abbastanza contenti perché comunque siamo nella seconda posizione, cioè siamo la traccia numero 2 con il nostro brano, ed è una cosa proprio uscita negli Stati Uniti per questa etichetta che si chiama Shatai Records di Atlanta. E ci hanno chiesto di partecipare, noi abbiamo detto di sì. Ci sono anche altri nomi, cioè, appunto, come dicevo prima, Lemmy Kilmister dei Motorhead, certo. Quindi è una cosa abbastanza importante, secondo me. E nei vari circuiti delle radio, là hanno tutto un circuito di radio nei college e cose di questo tipo. E pare che abbia funzionato molto bene questa compilation. Poi, veramente, essendo qua, noi non abbiamo veramente il polso di quello che si è successo. Una cosa ti devo chiedere, visto che all'epoca qualcosa si è mosso negli Stati Uniti, l'idea di andare negli Stati Uniti vi attira? Ci attira senz'altro, assolutamente sì, non siamo mai andati, anche se... Perché io ti spiego il perché, io conosco una band che è venuta qua l'anno scorso, sono di Dolo, dei ragazzi qui vicino, e loro sono stati negli Stati Uniti, sconosciuti al massimo, sono andati negli Stati Uniti, hanno cominciato a suonare una data in un piccolo club, e qualcuno del club li ha visti e ha telefonato all'amico a un altro stato, praticamente senza avere nessun contatto hanno fatto 5 date in 5 stati differenti. Bene, e quindi cosa partiamo? Vuol dire che suonare non ci sono confini, specialmente negli Stati Uniti. Se uno vuole suonare e viene sentito da gente, gli accordi si fanno immediatamente senza nessun problema. Qua in Italia è molto più difficile, quasi impossibile. Ma infatti Cioè, alla fine io direi che noi dovremmo prenderci un attimo, un mese o un mese e mezzo, capito, per dire boh, cerchiamo questa strada. Chiaramente è faticosa anche dal punto di vista economico, però sì. Non si ma sa sì mai. Ma non si sono cose che vanno fatte, esattamente. Adesso finché sentiamo 20 anni, dai. Finché abbiamo 20 anni, secondo me sono cose da fare. Esattamente. Esatto. Avete ancora 20 anni, sì, poco da fare. Adesso sentiamo un pezzo dal disco precedente, non dal disco da Endless Morning. E che traccia avete scelto? Vi ricordate? La scelta Cesare. L'ho scelta io, veramente sì. Ok, si chiama Vampire. La traccia numero 2, esatto. Esatto, proprio quella lì. Esatto, il numero 2 che si chiama Vampire. Perfetto. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Cesare Anceschi, Massimo Barbieri, Davide Gambarelli, la grinta, pezzo molto duro, molto forte, non dico metal, ma quasi ci siamo. La voce, avevi una voce proprio aggressiva al massimo. Aggressiva al massimo. Ci sei portato le bacchette, quindi è già una cosa molto positiva. Vuol dire che qualcosa fa, esatto. Sappiamo bene cosa. Non lo so bene neanche io cosa, veramente. Percuoterò il tavolo, credo. Bene, bene, bene. Ok, abbiamo sentito questo pezzo dall'album prima di Endless Morning. Cioè, da che album era? Ti ricordi? For What Might Have Been. Ah, grande, lo sapevi. Un attimo di amnesia, incertezza, poi però. Questo è ancora non prodotto, cioè non è autoprodotto come l'ultimo, è ancora con etichetta questo. No, questo era prodotto da Kimoto Music. Kimoto. Perfetto. Ok, 23:47, adesso facciamo, suoniamo. Primo pezzo dei tre che dobbiamo suonare, qual è? Questo è un pezzo che non ha ancora il titolo. Una new entry assoluta. New entry assoluta. Perfetto. What I think you get understood. What I think has got a heart from you. What I make you get understand. What I think has got a eye from band. What I can you gotta forsake. What I think has got a heart to play. What I can't, you get understood. What I think he's gotta hide from you. Hey, skin falling down. Why you can't be found. What I can't, you gotta forsake. What I think he's gotta hide to blame. What I can't, you get understood. What I think has got an eye from you. Ace keep falling down. Why you can't be found. Ace keep falling down. Why walk away. You just walk a do. You just walk away from you. You away from you. You away. Hey. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Dunque la chitarra di Massimo e la voce Davide al basso, mentre Cesare è in stand by, in attesa in attesa di cominciare a suonare con le bacchette. La mia performance. Bacchette assolutamente nuove, l'hai appena dall'involucro. Io non uso mai bacchette che non siano nuove per più di una strofa. Esattamente. Infatti quando siamo in studio è un po', diciamo, una cosa difficoltosa, perché me ne devono passare di strofa nuove, perché sennò il bilanciamento, ad ogni pezzo diciamo una ventina per ogni brano. Benissimo. Ottimo. Questo pezzo non aveva titolo, ma è un pezzo nuovo praticamente. Un pezzo nuovo che uscirà nel prossimo album nel 2080. No. Speriamo di no. Assolutamente. Uscirà sempre autoprodotto come questo o no? Dipende. Una qualche major della discografia interplanetaria. Facciamo un appello. Sì. se qualcuno su Marte vuole. Esatto, ma non so che appello facciamo, no? Nessuno, no. Insomma, noi siamo in cerca di un modo per fare soldi, quindi se se è possibilità, se, insomma, noi abbiamo questo, forse questo talento nella musica, e quindi se qualcuno ci sta ascoltando, oppure magari qualcuno che ci vuole regalare così denaro, anche può senza farlo? Può, sì, sì, certamente. Tu hai AB e CAB qui con te. Eh no, li ho portati. Li ho portati. E noi alla fine non è che poi alla fine interessi fare dischi e cose così. Alla fine, se volete darci il corrispettivo in denaro, per noi va benissimo. Va bene lo stesso. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Ci piace scherzare. Certo, ritornando al pezzo senza titolo, possiamo dire un pezzo. Qui abbiamo fatto una versione acustica, chiaramente la versione da disco sarà molto più elettrica, molto più energica, chiaramente. Sì. Sì, il nostro stile è quello che avete sentito negli altri dischi. Questo tra l'altro è quello che noi avevamo scelto come singolo, forse. L'idea era quella. È un probabile singolo. È uno dei probabili singoli. Quindi sarà leggermente meno forte, meno potente o più potente rispetto ai singoli che avete usato nei dischi precedenti? No, direi... il singolo precedente era Vowels Poetry, diciamo, quindi questo sarà più forte, più forte. Decisamente sì. Bene, quindi già positivo. Adesso fra poco suonerai le bacchette, allora. Suonerò il tavolo, sì, con le bacchette. Perfetto, adesso è 23:52, è una cosa molto interessante. Cesare suonerà un pezzo adesso. No, quello successivo. Finale incandescente. Perfetto. L'altro pezzo che suonate adesso ha il titolo oppure no? No, non ha un titolo definitivo. Ha un Struttura, come lo possiamo paragonare rispetto a quello che avete suonato qualche minuto fa, qualche secondo fa? E come struttura, non lo so, io lo sento un pezzo country questo qua. Fa la gioia di Davide praticamente. Sì, il country, sì, no? Sì. Assolutamente. Ogni tanto viene effettivamente alle prove vestito da cowboy. No, però non è vero. Un pochino Marlboro country, sì. Ma no, queste giacche della Timberland, No, vabbè, no, comunque un genere un che piace. È un genere poi che piace anche a me alla fine, sì, no. Ma Johnny Cash no. Ma io poi non è che sono poi afferrato, sì, però non è che sono afferrato sui nomi, sui principali county, in senso esponenti generale, di questo genere. Però insomma, come genere mi piace, mi diverte. Io ricordo che alcuni mesi fa sono venuto in una band. Il solista, sì, il vocalist, che aveva una chitarra acustica, gli altri due sono stati fermi. Lui ha preso la chitarra acustica e ha fatto un pezzo di John Denver, bellissimo. Cioè, Don John Denver non è che un musicista molto amato, molto apprezzato, è apprezzato dalle masse, ma certi musicisti tirano un po' il naso, giustamente, certi pezzi, insomma. Però ha fatto un pezzo di John Denver e siamo rimasti tutti a bocca aperta, nel senso positivo del termine. Certo. Quindi è una cosa molto positiva. Ok, suoniamo. Yeah. The good dress in the suitcase, but cannot go. Yeah, the shone with the bright light, but cannot see. You speak loud and clear, but cannot hear. Do you wanna make me rich? Got nothing. Ain't got nothing, you know. I wanted to go. Our love is real. Hey, now why don't you go? I want to cook starfish and coffee, but cannot stay. Then the telly and bass, but cannot play. Crazy rhythm and beat, but cannot dance. Do you wanna make me rich? Got nothing. Ain't got nothing, you don't look at it and go. Your love is clear. Got your letter, you change my weather. You keep, I'll make me shine. Ain't got nothing, you don't look at it and go. Your love is clear. Got your letter, you change my weather. You keep, I'll make me shine. Nothing you don't look anything else. Your love is clear. Got your letter, you change my weather. You keep on make me shame. Ain't got nothing to know, I'm getting to go. Your water is clear. Catch your leather, you change my weather. You keep on make me shame. Okay. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Più di un country rock alla Steve Miller Band, a Bob Seger, un po' così. Più che Bob Seger, Steve Miller, secondo me. A proposito di Steve Miller, sapete che è ritornato dopo 20 anni, ha fatto un altro disco, ha fatto 2 dischi recentemente, è venuto in concerto in Italia, non da molto tempo. E cioè molti hanno apprezzato i vecchi cose di Steve Miller, non quelle nuove, però insomma, Steve Miller, The Joker, ve lo ricordate, The Joker, un pezzo famosissimo che ha fatto successione incredibile. Sì, sì. Ok, abbiamo sentito questa novità pseudo country dai Radio Stars, primis da Massimo, da Davide, e fra poco parte anche con Cesare con le bacchette, famose bacchette che adesso sì sì, abbiamo concluso, abbiamo questa carrellata, queste 2 ore, ragazzi, abbiamo suonato 2 ore perché mi avevo parlato, ci siamo divertiti per 2 ore, abbiamo parlato del vostro excursus sonoro, dei vostri album. A proposito, Endless Morning, come si può trovare? Cliccando nel vostro sito si può richiedere così? Sì, sì, sul oltre sito... a scaricare, se uno lo vuole fisicamente. Ah beh, sul sito ci sono tutti i contatti, email, quindi basta scrivere il nostro indirizzo di email con la richiesta di eventuali copie e noi provvederemo a spedire il disco con anche appunto il DVD, DVD la versione sì, sì, sì. È allegato quando uno compra proprio la copia proprio fisica con €15 c'è il disco e il DVD. Perfetto, un prezzo molto economico, quindi si può ascoltare, chiaramente si può comunque acquistare senza problemi. Dimmi. Comprandolo si ha tutto quanto in più, c'è cioè il booklet, sì, beh, i testi stampati, insomma è una cosa diversa. Io credo che comunque rispetto allo scaricarsi dei file audio sia più interessante avere in mano una cosa fisica con tutte le cose giuste, la copertina. Insomma, certo, è ancora qualcosa che vale, insomma, copertina, tutto il libretto ben fatto, sono cose positive. E in più c'è dentro questo documentario di 1 ora e 20, insomma, che secondo me è importante. Benissimo, grazie ai Radio Stars. Grazie a voi veramente. Queste due ore piacevolissime in vostra compagnia. Grazie. Grazie a Michele Tosoni in regia e anche a Roberto Baldi che ha dato una mano. Beh, è rimasto vicino a te. E domani avremo un altro concerto con i Calicanto. I Calicanto è un gruppo famoso veneto che parlerà di tradizioni e musica popolare veneta. Ma terminiamo con i Radio Stars con quale pezzo? Concludiamo con Cesare alle bacchette, chiaramente. Cesare alle bacchette e Davide alla voce. My Garden. E Massimo alla chitarra. La chitarra. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Have you ever seen my garden when the moon reflects the sun? When the night reflects the day, have you ever seen this way? Seen his status when you blow your breath away. I have met her night by day when the night your blues to steal. Have you ever seen? I'm the one who watched the sun. I'm the boy that was a man. I'm the one who walks the garden. I'm the singer and the song. Have you ever seen my garden? Have you ever seen my garden? Have you ever seen my garden? There is nothing to do art. Everything here comes from nature. Everything comes from the sun. Have you ever seen my garden? Have you ever seen my garden? Have you ever seen